vuoi pastore in amor e i nostri amanti usurparsi così. Vado tu sei sol per amare noi e poi aggiungi qual nostro al tuo liberator, ma soffro vederti ingrata. Amante sei del mio e del tuo zelo la ragione è questa, non è così? Sì, non m'ascondo, è vero. Avere un cor che nato un alto orgoglio di dolir nell'amor nel di lui cuore, nel mio la tenerezza fugge ingrato e superbo il mio l'esprezza. Fine indiscreta che mia è quella di cui ritenne la forza amore non è cor di nostri geni ignora e libera comodità e li dispone col mio nome e le mia cuore attendi, e ne farò tu, sull'amore mio contendi.